Carissimi amici di Lantern Radio, bentornati a Everything, la trasmissione che è la sostituta di tutto un podcast e che poteva chiamarsi anche di tutto un podcast, ma in realtà l'abbiamo chiamata Everything, quindi fatevi una ragione di questa cosa. E anche se molti ci dicono ma di tutto un podcast, di tutto un podcast è questo qua, dai, alla fine è sempre la stessa roba, è la trasmissione dove parliamo di tutto ciò che ci circonda nel mondo. Io sono Simone Pizzi e con me la mia fedele moglie Michela De Paola. Ancora con sto fedele, basta con sta fedele, dice. Salve a tutti, bentornati di tutto un podcast. Si è evoluto, è passato Everything e quindi adesso siamo di tutto pensatori in tutte le lingue. Ok. E ovviamente questa trasmissione, questa puntata nello specifico, di cui poi andiamo a parlare di che cosa è, abbiamo l'ospite, gradito ospite, Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti da Carlo e Sant'Agostino. Da Svidania, da Svidania. No, Strasvidie. Ah no, Strasvidie. Strasvidie. Da Svidania si dice quando ci si... Quando ci saluta. Sì. Quando si è un addio da Svidania, allora. Sì. Tavarish invece? Tavarish e compagno. Ok. Gorbaciov. Erporo Gorbaciov. Insomma, l'hanno fatte tutti i colori. Tra l'altro, iniziamo questa puntata dedicata a Ciao 2020. Perché mia moglie, da quando ha visto sto Ciao 2020, mi ha fatto una testa che non finisce mai dentro casa. Sente solo yes, e quindi adesso ne parleremo. Mentre negli Stati Uniti è in atto un colpo di Stato. Sì, infatti poi se ci avremo aggiornamenti sono veramente cose belle. Cioè praticamente sta succedendo veramente di tutto. Quest'uomo è veramente un pazzo. Eravamo quasi convinti che ce l'eravamo levati dalle balle, ma praticamente fino all'ultimo Trump sta facendo veramente delle cose inaudite, tra l'altro per la storia degli Stati Uniti, che insomma non sono soliti a queste follie istituzionali, quindi parlamentari asserragliati. Beh, comunque in questi ultimi armata, 4 anni hanno visto di tutto, quindi Non poteva finire altrimenti. Sì, la degna conclusione, diciamo. Vabbè, ma poi ne parleremo. Speriamo di non avere aggiornamenti, perché vuol dire che è successo qualcosa di brutto. Speriamo di non avere gravi di aggiornamenti. Sì. Però insomma, diciamo che purtroppo c'è stava questa situazione di tensione, in qualche modo doveva sfociarsi. Qualcosa, diciamo, doveva succedere. Va bene, ragazzi. Allora, veniamo invece al focus della puntata, che è questo Ciao 2020 o Ciao 2020. Ciao 2020. Che ha riempito, diciamo, le nostre orecchie, i nostri occhi, i media italiani in generale, e Twitter, Facebook, fino a diventare abbastanza virale. Introduciamo un po' la questione, Michela. Allora, tra te e Carlo, che siete interessati a questa cosa. Sì, allora... io sono un infiltrato, non è che sto qua semplicemente perché di solito, sai, io parlo solo di archeologia informatica, quindi sto aprendo la parentesi, ma mi piacciono anche tutte le cose relative ovviamente agli anni 80, al passato nerdose, quindi sono qua da appassionato di questo Ciao 2020, ecco. Diciamo che ci ha tutti regalato una gioia inaspettata questo Ciao 2020, è arrivato così. Io almeno l'ho conosciuto perché ne hanno parlato due persone, cioè nel senso mi hanno scritto degli amici russofili con cui praticamente avevo frequentato l'università ai tempi in cui eravamo a San Pietroburgo insieme, e poi ne aveva parlato Stefano Tiozzo, e quindi ho capito che stava succedendo qualcosa di strano e ho detto no, vabbè, andiamo a vedere sta cosa. Ma tra tutti questi artisti c'è anche la moglie di Stefano Tiozzo? No. No, non c'è, quindi no. Strano che ne ha parlato, che non c'era. Sì, vabbè, sì, comunque. No, ne ha parlato anche molto bene, insomma. Quindi tu giochi in casa fondamentalmente, l'abbiamo detto tante volte, tu hai studiato russo all'università, sì. Sei insomma appassionata di cultura e sì, e mi sono resa conto quanto i russi sono malati di letteratura, di cultura pop. Italiana, cioè veramente televisione italiana, sì. Tu la chiami cultura, io lo chiamo trash, cioè, però comunque è cultura anche quello, cioè, sì. È una sottocategoria. Quindi che cos'è questo? Allora, Ciao questo 2020? Ciao 2020 è un improbabile festival musicale di Capodanno che è tutto in italiano, quindi fatto tutto in italiano, canzoni, dialoghi, tutto quanto fatto, tra l'altro veramente studiato a tavolino, ma una cosa è, secondo me, un gran lavoro. È stato trasmesso lo scorso 30 dicembre 2020 sul primo canale della TV pubblica russa, Pierwi Kanal, parodiando la TV italiana degli anni Ottanta. Diciamo che c'è stato uno studio, secondo me, una preparazione incredibile. Tra l'altro lo stesso presentatore, Giovanni Urganti, Ivan Urgan, anche in arte Alex Raccuglia. No, lo chiamiamo Alex Raccuglia perché poi c'è qualcuno che va in panico, non vogliamo stragi. Ma lo stesso presentatore Ivan Urgant, che tra l'altro si fa chiamare Giovanni Urganti, è bravissimo, insomma, quindi nel senso regge perfettamente tutto il programma. Vabbè, lui dichiara di essere appassionato di quel tipo di cultura lì, cioè di quel tipo di televisione lì. E da appassionato ha costruito, diciamo, questa trasmissione in una maniera che, cioè, nel senso, anche noi, no, nella televisione italiana abbiamo fatto magari alcune parodie, alcuni omaggi ad altri, che ne so, ad altre nazioni o ad altri modi di fare televisione, ma lo abbiamo fatto nella nostra lingua. La cosa incredibile è che questi l'hanno fatto nel primo canale totalmente in italiano, il programma. Sì. Totalmente in italiano, sì. Vai, Carlo. È vero che molti la chiamano parodia, può essere identificato come parodia, ma per come l'ho vissuta io, o almeno per come l'ho vista io, sembra più un grandissimo omaggio a quel tipo di televisione più che parodia, perché poi in realtà la parte comica e parodica è molto russa, invece quella che c'è dentro, sì, solo che pochi la capiscono. I riferimenti, infatti, quelle. Già solo quello sulla battuta sul lago di Como. In realtà è una battuta che soltanto le persone che conoscono il personaggio che la fa, insieme al presentatore. Quella, ma come anche tutte le altre cose che ci sono dentro, da quello dal regista di film pornografici con la critica all'omosessualità russa, sì, al discorso della quando dicono le quattro puttane, che molti dicono che credono sia una specie di insulto, eccetera. No, parlano invece di una serie. Il titolo reale di una serie reale russa vera, sì, con le attrici che sono veramente le attrici, sì, di questa serie TV russa. Quindi tutto quello che è costruito intorno, secondo me, è omaggia più che altro a quel tipo di televisione italiana. Ma infatti la domanda che vi faccio a tutte e due è questa, cioè, nel senso, è chiaramente dichiarato, no? Nel senso, loro dichiarano apertamente l'omaggio dal punto di vista culturale. Poi ovviamente c'è una parte che scimmiotta molto, sia dal punto di vista dei nomi, dal punto di vista anche del sound, no? No? Del modo di fare, anche l'approccio, anche tutti bravi, tutti buoni, bravo, bravo, no? Quando dice sempre bravissimo. Alla fine comunque un pizzico, no, di presa in giro ci sta, ma è anche lecito, no, tutto sommato. Ma voi, guarda, voi ce l'avete vista o no? No, io sinceramente ho visto un grande studio dietro, ovviamente una volontà di rendere il tutto, diciamo così, fruibile e anche simpatico, gioioso e sicuramente spiritoso, e poi conoscendo anche il presentatore, cioè avendo comunque diciamo così, approfondito anche il presentatore, ho capito che si tratta di una specie di Jimmy Fallon russo, in pratica, che si occupa di questo programma che va in onda il sabato sera, soprattutto, quindi una specie di Saturday Night Live in lingua russa, in cultura russa, e i personaggi che ne fanno parte di Ciao 2020 sono comunque personaggi che poi frequentano il suo talk show molto spesso, e quindi ho visto molta autoironia, ma anche un grande omaggio, perché poi quando tu frequenti in qualche modo la Russia, a parte la follia della Russia, vabbè, questo ci potremmo stare qui a parlare per anni, e ti rendi conto che loro hanno veramente questo grande amore per la nostra cultura, che uno dice: ma voi siete pazzi, cioè, Adesso penso che spopoli tipo il volo, queste cose qua, Laura Pausini, eccetera. Ma c'è sempre Toto Cutugno, c'è sempre Pupo, c'è sempre. Questo lo posso confermare anch'io. Sì. Quando sono stato all'estero, nei paesi dell'est in generale, in Russia forse non lo so, però quando sono stato in Lituania c'era comunque una marea di musica italiana. Tra l'altro. Ma poi... non solo musica, anche i programmi, le imitazioni dei programmi, quindi prendono tutto il meglio e il peggio. Vabbè, quello che una volta abbiamo fatto anche noi. Diciamo che adesso, dopo, finiamo un attimo questa discussione, poi andiamo a sentire quelle che sono poi le canzoni che sono state fatte. Sì, che poi diamo una parentesi. Come diceva Michela in maniera particolare, in realtà loro hanno preso delle canzoni russe, le hanno tradotte col Google Translate, poi fondamentalmente. Allora, su questa volevo dire una cosa, perché sai che io sono un nerd e quindi vado a guardarmi queste okay. cose nel particolare, no? E quindi ho provato io a prendere i testi russi in russo, in cirillico, e provare a tradurli col Google Translator, e saltano fuori delle cose che non c'entrano niente con quello che è andato in onda. Per esempio, la grande che poi sentiremo alla fine è Io chiesi al frassino, no? Per esempio, il nome della ragazza, della cantante, La Soldinetta, no? La Soldinetta. Quella che è esatto, in inglese, il suo nome originale in russo vuol dire monetina. Sì. Cioè, se tu prendi il suo nome in russo, si traduce proprio come piccola moneta, little coin o monetina. Quindi anche tradurla con Google Translate viene fuori monetina. Averla tradotta con La Soldinetta, quindi, non può essere arrivato da Google Translate. Lì ci deve, per forza di cose, ci deve essere stato, o hanno preso un consulente o qualcuno, uno qualche studio, sì, uno studio, sì. Uno studio, un semantico. Adattato alla, ovviamente non in maniera perfetta, perché l'italiano non è perfetto, lo vediamo. Ma io credo che sia anche quello sia una cosa voluta, comunque, cioè, nel senso, del maccheronico potrebbe essere, ma di sicuro comunque c'è qualcuno dietro che conosce l'Italia e l'italiano, perché tradurmi una cosa che si, un nome che si chiama La Monetina con la Soldinetta, certo. Se l'avessero tradotto come con Google Translate sarebbe venuto fuori Monetina. No, ma io sono abbastanza convinto che magari con le risorse che hanno messo in campo, perché lì veramente, cioè, nel senso, per studiare, sì, progettare, scrivere tutto quel lavoro, delle risorse sono state messe in campo, probabilmente c'è stato anche un supporto, probabilmente anche da italiani, no? Adesso non lo sappiamo, questo sì, indagheremo. Però quello che volevo dire è che, al di là delle queste canzoni che sono state appunto tradotte un po' così, diciamo, in maniera particolare, le canzoni sono realmente canzoni che oggi vanno in circolazione nelle radio russe, quindi sono canzoni russe che a loro piacciono, no? Quel tipo di pop lì. Però se noi andiamo a sentire, quando io l'ho sentita per la prima volta in italiano, in realtà, pur essendo musiche moderne russe, ricordano comunque le sonorità, o molte ricordano molto le sonorità del pop anni 90 italiano. Cioè... sono state la colonna, la musica è stata rifatta, sì. Cioè, la melodia è la stessa, ma l'arrangiamento è stato volutamente rifatto in chiave pop, sì, anni 80. È vero. Non tutte, sono però, alcune sono pari pari. Qualche ritmo, sì. Qualche ritmo è pari pari, ma molti adattamenti e aggiunte, eccetera. Anche lì, dal punto di vista musicale, dietro c'è un lavoro incredibile. Sì. Ma anche la presentazione, cioè, degli artisti stessi è una cosa. Sì. Oddio, io quando ho capito che praticamente la traduzione maccheronica, diciamo così, in italiano più o meno diceva la stessa cosa in russo, soprattutto su una canzone, mi sono un po'... Poi ce lo dici. Sono un po' rimasta... Diciamo, la grande furbata, che poi secondo me è stata la cosa che ha fatto esplodere questa questione, è che questa trasmissione, probabilmente andata in diretta, come diceva Michela, sul primo canale in Russia, poi alla fine è stata messa integrale su YouTube. Sì. Ed è qui che la gente è impazzita. E adesso mi sembra che sta tipo a 5 milioni. 5 milioni di visualizzazioni, quindi insomma pure una roba grossa. Carlo, è caduto Carlo, aspetta che lo richiamiamo. È caduto Carlo? Carlo, sì. Lo fanno a volte quando il bello della diretta succedono anche queste cose. Magari è andata via la luce, chi lo sa, insomma, che è successo. E vabbè, allora guarda, io farei una cosa, dato che ci siamo abbiamo comunque la scaletta condivisa, quindi la conosce pure a lui. Allora, intanto vi aggiorno sulle visualizzazioni, che sono 5 milioni e mezzo okay. a stasera di Ciao 2020. Io inizierei con la prima canzone, che tra l'altro è tornato? No, non è tornato. Tu, allora, okay. come faccio a fare che cosa? Mi si è chiuso Skype. Oh. Riaprilo. Vai. No, più che altro ti volevo dire, ma appunto, cioè, nel senso, non l'abbiamo visto tramite YouTube questa roba, ed è diventata praticamente subito virale. Tu, ecco, come ci sei arrivata, e soprattutto come hai visto spargersi questa cosa? Allora, io sono stata una delle prime persone, penso, che l'ho sparsa dovunque quando l'ho vista, cioè, nel senso, non potevo credere ai miei occhi, quindi ho cercato di farla vedere a chiunque. E anche a chi non l'ha capito, cioè, c'è stato per esempio Marco che mi ha detto: è tornato Carlo, ma che è sta roba? Scusate ragazzi, succede. Quindi io l'ho condivisa per prima, diciamo così, e tra l'altro mi ricordo che Carlo mi rispose: ma che cavolo è sta cosa? È colpa tua, infatti, è stata colpa tua, assolutamente colpa tua. Ma io non ci potevo credere, non potevo credere ai miei occhi. Basta, è diventata tormentone, cioè è finita. Che poi a me mi ha fatto ridere, perché con un certo ritardo molte persone, anche persone che conosco io, alla fine hanno postato sta roba come a dire: guardate che ho scoperto quanto sono intelligente io. Cioè, ma da mo che che sta il da mo che dentro casa mia, ma guarda, cioè, mia moglie che praticamente cioè veramente per me è stato un inferno. Hanno fatto il servizio al telegiornale, l'hanno fatto ieri se non sbaglio, il servizio su sì, TG2. So che hanno fatto quindi un servizio su qualche telegiornale, è vero. Sì, vabbè, anche perché ieri magari sul TG2 l'ho visto, tempo di documentarsi, appunto. Veniamo anche a questa questione dei media italiani, no? Che comunque oggi o ieri, quando è il TG, però comunque le testate giornalistiche online, insomma, ne hanno parlato in tanti, cioè dal Fatto Quotidiano, Repubblica, cioè, sì, anche, i giornali, dire, sì. Ho visto degli articoli pessimi, sì, oltretutto, su questa cosa, perché non l'hanno capito. Secondo me non l'hanno capito, ma la cosa strana è che non hanno neanche approfondito, cioè questo, vabbè, lo sappiamo come. Vabbè, questa è l'approssimazione del giornalismo italiano. Ci metti anche il fatto che a noi ci piace prendere per culo gli altri, poi quando ci prendono in giro a noi, a me se non concesso, che come avevo detto, poi in realtà non è una presa in giro. Esatto, non è neanche una presa in giro. Ci dà fastidio, però, capito? Cioè, nel senso, questo mi ricorda un tizio che conosceva Michela, anzi un amico, insomma, di famiglia loro, che quando si parlava di Tenerife e si diceva: Tenerife, gli italiani non sono tanto visti di buon occhio, perché sono visti un po' come magari alcuni vedono da noi i romeni, no? E c'era uno a tavola con noi: ah, ma come sarebbe a dire? Ho detto: scusa, ma di che te incazzi? Cioè, fino a che siamo noi che comunque insultiamo gli altri, va bene, quando ci insultano a noi ti dà fastidio. Cioè, come ragioni? Cioè, nel senso. E questa è un po' l'approssimazione italiana su una cosa che in effetti io non ho letto, devo dire, gli articoli, però appunto, se ne volevate parlare un pochino. Io purtroppo devo dire che ho letto quello e ci sono rimasto molto male. Ho letto quello del Fatto Quotidiano. E io di solito il Fatto Quotidiano lo considero una delle migliori testate, tra virgolette, cioè, okay, con tutte le virgolette del caso, ma non, pessimo, incredibile, cioè veramente non ha approfondito neanche minimamente la cosa, ne ha parlato come se fosse la presa in giro inventata della televisione italiana, dicendo solo che ha avuto un grande successo sui social, eccetera, e che c'era gente che voleva proporre Giovanni Urganti come presentatore di X Factor, la nuova edizione di X Factor o del Festival di Sanremo, sarebbe che meglio. Non sarebbe male, cioè, comunque alla fine è un bel ragazzo e secondo me è anche una persona intelligente. Io poi, da quello che ho guardato, da quando ho scoperto Giovanni Urganti, diciamo, o Ivar Urgant, ho cercato di capire. Beh, lui l'italiano lo sa, cioè, non credo che sia solo copione quello, no ma cioè, anche, cioè, secondo me, scusa, No, scusa. Dicevo, vabbè, io parto dal presupposto che conosco la televisione russa di 20 anni fa, perché ormai sono passati 20 anni. Anch'io c'ho da raccontare delle cose. Però comunque mi sembra che la qualità della televisione russa, grazie a un programma come quello, abbia acquisito maggiore, diciamo così, modernità in qualche modo, e si sia un po', diciamo così, messa a paro con i tempi. Vabbè, adesso... Poi adesso in Russia girano i soldoni, hai visto i videoclip delle canzoni, cioè roba che comunque con budget, non è una roba... Vabbè, ci sono grattacieli in Russia, cosa che io non ho mai visto. Però io mi ricordo una cosa della televisione cecoslovacca e russa, che era questa cosa particolare. Noi siamo abituati culturalmente al doppiaggio in Italia, no? Sì. E cosa che nei paesi dell'est non esisteva. No. Esisteva la traccia originale con un voice over unico per tutti i personaggi. Che praticamente spiegava quello che succedeva, sì, no? Tipo quello, ah, fuck you! E poi no, il cane che abbaiava. Il cane, woof. È una cosa, ragazzi. Poi io lo so, sicuramente... Confermo che all'epoca in cui c'ero io era ancora così, per quanto riguardava quelle poche cose. Sicuramente oggi non è più così, però cioè, voglio dire, comunque questa cosa mi faceva ridere, capito? Perché tu sentivi sotto l'inglese, no? Allora dice, al suo punto fammi sentire l'inglese, no? Cioè, se quelli che parlavano è questo, con una tristezza. Una cosa che mi sono... posso... Che mi sono reso conto con questa scusa di questa trasmissione, è che moltissimi di noi... Io in parte no, ma solo perché ho approfondito recentemente per questioni informatiche la storia dell'Est Europa. Molti di noi sono fermi alla mentalità di considerare l'Est Europa e la Russia allo stato che era all'epoca della caduta del muro di Berlino, poco dopo, cioè poco dopo la perestroika. La perestroika. E la consideriamo ancora così. Cioè, allora, noi la prendevamo in giro. Adesso che noi ho avuto modo di rispondere a una persona che diceva: no, ecco, se noi prendevamo in giro i russi, vedi che cosa succedeva. Loro hanno così in giro. A parte che, come ho detto, non ci stavano prendendo in giro, ma noi invece li abbiamo presi in giro per anni. Infatti. I gemelli Ruggeri, vi ricordate la trasmissione di Croda dei gemelli Ruggeri? Sì, vagamente me la ricordo. Era uno sketch televisivo, era una trasmissione di, come si chiama, di Roversi, di Patrizio Roversi. Adesso non mi ricordo più il titolo, vecchia trasmissione, c'erano i gemelli Ruggeri, facevano Croda, le cronache di Croda, e facevano vedere appunto la Russia e l'Est Europa come fermi a 50 anni fa praticamente, no? Con tutte le cose vecchie, tecnologia vecchia, eccetera. In realtà adesso la Russia è assolutamente al pari coi tempi, e la qualità di trasmissioni di questo tipo, nonché appunto, come hai detto tu, anche tutti i videoclip che ci siamo andati a vedere, eccetera. Ma se ti vai a vedere su Wikipedia, poi io un pochino ho approfondito le trasmissioni comiche, la satira, eccetera, è al pari nostro, cioè sono veramente a pari di tutto l'Occidente, cioè, come qualsiasi nazione attuale che ha uno stadio almeno di ricchezza medio-alto come noi, come gli Stati Uniti, come tutta l'Europa, eccetera. Sì, diciamo che vabbè, c'ha i suoi problemi sociali, però... Sì, vabbè, al di là di quello che comunque poi abbiamo parlato... Ce li hanno tutti, perché allora anche in America, in Cina, eccetera. Diciamo che forse la cosa che un po' li penalizza, poi ovviamente oggi se tu vedi un po' le produzioni è lo stile, cioè nel senso che comunque ancora devono raffinare, sono un po' rozzi, diciamo, nella parte diciamo artistica, ecco, diciamo così. Vabbè, però ci sta anche perché comunque hanno iniziato più tardi rispetto a noi, no? Infatti non è... Produzioni originali russe, a parte tutti i grandi film che ci facevano, che propinano ancora sempre, cioè, proprio dall'era sovietica a oggi. Io da che mi ricordo ce n'erano pochissimi, quindi cioè, se hanno iniziato a lavorare su loro produzioni, sicuramente poi dovranno affinare le loro capacità. Intanto è stato proclamato il coprifuogo a Washington, questo giusto per... scusate. Stavo dicendo che intanto è stato proclamato il coprifuoco a Washington, no, Trump twitta no alla violenza, ma cioè oramai sarà sospesa la seduta, scontri per la città, vabbè, dai. Vabbè, comunque, allora, intanto prima di partire con le canzoni, perché sono bellissime, io farei un attimo di carrellata dei personaggi che accompagnano Giovanni Carrella, Iurganti in questo show. Tra l'altro poi ho scoperto, ho visto anche nell'articolo che ci hai mandato tu, e sono andata a vedere che Ornella Muti, per esempio, che altra diva che tutti adorano. Beh, almeno mi è toccato Ornella Muti, lei va è stata ospite al talk show di Ivan Jurgant, quindi insomma tanta roba. Vabbè, stava a parlare di icone, ragazzi, cioè non stava a parlare più di personcine così. Sì, insomma. Ma poi lei mi sa che sta lavorando a qualcosa in Russia con un attore famoso, quindi insomma l'hanno sempre molto amata, anche se io poi mi ricordo che la cosa che gli piaceva tanto ai russi, la donna che gli piaceva tanto era la Bellucci, infatti si incavolarono quando conoscerono me, che non c'avevo niente a che fare con la Bellucci, soprattutto quando venni ospitata in famiglia, insomma. Però vabbè, e ci sono questi personaggi, ovviamente tradotti anche loro dal russo all'italiano, oltre Giovanni Urganti, Matteo Grussaldi, che è la spalla di Urgant nella sua trasmissione originale, e il nome originale è Dmitri Krustalyov, quindi insomma vabbè. Bei nomoni. Alessandro Gudini, che è uno showman molto famoso in Russia, è stato conduttore con Jurgant, e anche lui si è formato alla scuola del KVN, che sarebbe il KGB, qualcosa del genere. È una scuola comunque storico che ha dato via. Mi sono studiato tutta la storia del KVN, se sì. Volete la racconto. Vai al volo, ancora. Sì, come no. Praticamente il KVN era una specie di concorso comico inventato all'inizio degli anni 70 in Russia. Nelle università, in pratica, si faceva questo concorso dove degli studenti si iscrivevano al concorso comico, dove dovevano salire su un palco e fare ridere, cioè dire delle battute che facessero ridere. E si faceva avere un vero e proprio concorso dove venivano votati questi comici, e praticamente c'era il vincitore della serata, eccetera. Erano dei club che hanno iniziato a formarsi in tutte le università russe all'inizio degli anni 70. Quasi subito hanno iniziato poi a fare il concorso nazionale, la finale praticamente di questo concorso comico, che andava in onda sulla TV russa, il primo canale, no? Ancora in epoca sovietica. E ha avuto un grandissimo successo i primi anni, peccato che poi, siccome questi qua facevano battute che ovviamente andavano anche, essendo comici, essendo satira, certo, andavano anche a colpire, diciamo, se la rischiavano, regime, insomma, di quell'epoca, la trasmissione fu nel 76 fu sospesa, però un pam, basta, via, non strano, se ne niente. Strano, no? Hanno fatto bene. Però diciamo che nel sottobosco dell'università, eccetera, questa si andava comunque avanti a fare, perché ovviamente la gente continuava a voler ridere, eccetera, anche durante il regime. E dopo la caduta della perestroica fu una delle prime trasmissioni immediatamente rimesse in onda nella TV russa, e da lì il successo continuò ad aumentare tantissimo negli anni, fino ad arrivare, diciamo, alla fine degli anni 90, dove praticamente quello che controllava la trasmissione, e quindi aveva a contratto i comici che partecipavano, era una delle persone più influenti nella televisione, nello spettacolo in Russia, nonché anche ovviamente come si dice, produttore di tantissime cose che avevano a che vedere con la comicità. Quindi questa KVN è diventata un po' non so come potremmo definire qua da noi, qualcosa tipo lo Zelig, se vogliamo, qualcosa di simile, ma non è proprio così, nel senso, qualcosa da cui sono nati tutti i maggiori comici russi, forse tipo Avanzi la TV delle ragazze, no, quelle cose lì, quelle scuole di satira italiane che ce ne sono state anche da noi, insomma. Esattamente, questa è più o meno in breve la storia della KVN. Okay. Interessante. Quindi non era una intelligence russa no, pericolosa. Vabbè, assassina. Non si sa mai che cosa ci possa essere dietro. Infatti non si sa mai. Comunque quando si riuniscono questi diciamo così, centri culturali in Russia, c'è sempre qualcosa di più, insomma. Io dato che sto risolvendo dei problemi tecnici. Ok, vai. Li vogliamo di dopo gli altri. No, dimmi, però io inizierei intanto con, okay, con la prima. Intanto, vabbè, perché c'è una bravissima Allegra Michele, che è Alla Micheva, che è attrice di teatro e cinema, conduttrice TV, che praticamente lei conduce una rubrica nel Vicerni Jurgant, che è il titolo di questo programma di Jurgant, e è molto brava, secondo me. Lei è molto brava, tra l'altro c'ha questo seno vinto, sì, gigante, che a volte gli sparisce. Sparisce questa trasmissione, lei si guarda di dove sono finito, quell'altra che è andata con gli occhi. E sì, infatti c'è una certa Ornella Buzzi, che in realtà è Olga Busova, che è diventata famosa grazie al reality show Dom Dova, che indovinate un po' che cosa vuol dire Dom, casa, quindi è una specie di Grande Fratello. È cantante, attrice, un po' performance, fa diverse performance nella televisione russa. Vabbè, facciamo sentire la prima canzone, sì, poi dopo andiamo avanti, sì, e presentiamo anche le facciamo altre. La spieghiamo prima, vai, o dopo la prima canzone? Allora, prima sentiamo la versione russa, okay, che è importante, no? Giusto? Ok. E guardate, miracolo, la sente anche Carlo. Sì, è vero. Эту песенку мою пускай поют, пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут, ой, часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре. Ovviamente sentiamo un po' dalla qualità della produzione che stiamo parlando di un brano non proprio recente. No, infatti 1956. Sì, sì, è il momento clou della colonna sonora del film del 1956 Carnaval Janoci, che è notte di carnevale, da intendere come serata in maschera o serata di festa, e non nel senso stretto del carnevale come lo intendiamo noi, e narra proprio la storia di una notte di Capodanno. E questa voce che sentiamo è quella dell'attrice Lyudmila Gurchenko. Пять минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. È tutto chiaro, Carlo, no? Il testo della canzone. Sì, sì, sì, tutto, sì, molto... perché conosco quello tradotto. Piat minute. Che adesso facciamo sentire la versione tradotta. A questo punto io... Sì, che poi è l'intro dello spettacolo. Esatto. Festeggiamo a tutti noi, questo canto mi regala a tutti voi, la canzone gira il mondo, non perdete un secondo e cantate insieme là con me, con me. Come stai? Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Come stai? Come va? Che io dico, Carlo c'ha ragione. Adoro. Il sound design di sta roba è incredibile, ma anche la tematica. Come stai? Tutto a posto? Cioè, noi facciamo queste canzoni, noi se volemo bene, noi siamo quelli che. Beh, cioè, veramente grande lavoro. Grande. Vai Carlo. No, allora, come hai detto tu, emerge tutto il lavoro che c'è dietro, veramente incredibile. Però io volevo porre un accento sul. Un'attenzione, scusate, sul film, quello, perché io non è che sono esperto di filmografia russa, io l'unica cosa come tutti noi conosciamo la corazzata Potemkin, è grande, esatto. Ci sono rimasto veramente stupito dal film del 56, questo da cui è tratta la canzone. Se sei visto tutto, Carlo, vai. Non tutto, però ne ho visto un bel pezzo, ed è del 56 ed è incredibilmente sembra un film di Hollywood del 56, sì. Cioè è uguale, è incredibile, cioè, la produzione russa sì. di quel periodo, sconosciuta da noi perché è sconosciuta, è identica alla produzione, sì. Cioè, si vede che avevano gli stessi mezzi, le stesse potenzialità, la stessa, probabilmente lo facevano anche apposta, nel senso di far vedere che anche loro sì. facevano i film come Hollywood. Assolutamente. Ma sì. è, sembra assolutamente un film hollywoodiano del 1956. Innanzitutto stai a parlare del cinema russo, ragazzi. Cioè, che mo, al di là del fatto che chiaramente per ragioni di regime doveva somigliare, doveva dare la stessa, come posso dire, enfasi anche visiva, no? Però, cioè, ricordiamo che il cinema russo ha fatto scuola in un modo, penso, insomma, difficilmente negabile, no? Da quel punto di vista. No, infatti, secondo me questa è una grossa perdita, perché non se ne parla più. Cioè, dopo gli anni bui, diciamo, tra la fine del regime e l'inizio di quello dell'attuale Stato, c'è stato un buco che pare abbia cancellato tutto quello che c'era di buono anche prima, cioè di quello che aveva prodotto la Russia precedentemente. È vero. E andrebbe assolutamente riscoperto. Diciamo che poi questi classici sono classici. Io, per esempio, che ho vissuto sia in una famiglia, diciamo così, e che in uno studentato, mi sono resa conto quando vivevo nella famiglia che loro poi ci tenevano che io vedessi queste cose, quindi il film di Capodanno, eccetera, eccetera, nonostante fossi lì in estate, eccetera, perché per loro sono veramente delle certo. tradizioni importantissime. Ma c'ha ragione. Hanno ragione. Sì, e infatti io vedo, ma sono bellissime queste cose, mai viste. Chiaramente, perché da noi non sarebbero mai arrivate, però devi anche considerare un po', abbiamo parlato magari in altre occasioni, no? In paesi come la Turchia, dove per altre ragioni storiche magari determinati prodotti dall'America non arrivavano, se li facevano da soli. Ricordiamo la famosa serie di Star Trek, il turco, cioè, che è praticamente Star Trek rifatto dai turchi, insomma, quindi è una cosa... Beh, ma se magari indaghiamo, secondo me ci sarà qualcosa rifatto dai russi, versione Simba. Ma allora, sicuramente, ma quello che più che altro, quello, cioè i film turchi adesso, quella produzione fa ridere, soprattutto quando vediamo gli spezzoni su YouTube, eccetera. Sì, sì, c'è sì. anche una grossa produzione indiana simile. Bravo, bravo, esatto. Sì. Ma qui quello che voglio far notare non è tanto questo, il fatto è proprio della qualità. Sì. Cioè, se tu guardi questo film qua del 56 russo, è qualitativamente a livelli hollywoodiani, certo. in senso assoluto. Cioè, non è una roba fatta in casa perché non potevano, come in Turchia, eccetera. È qualcosa di veramente, veramente fatto bene. Insomma. Vogliamo ascoltare la seconda, Michela? Vogliamo ascoltare la seconda, che è quella che mi ha mandato proprio in paranoia totale. Perché io, quando ho sentito questa canzone, ho detto: no, vabbè, ma, cioè, ma come l'hanno tradotta? Ma che dicono? Ma questi non lo sanno che stanno di. Ma poi menzione d'onore pure ai cantanti che hanno registrato le canzoni, cantano in playback, si vede. Però poi come vengono presentati, che sembra che stanno. Che, cioè, sembra Sanremo praticamente. L'idea è quella, certo. Sì. Sì, sì, sì. Sì, ma la cosa è come dice giustamente Michela, cioè questi sono cantanti che fanno, non sono attori, fanno cantanti. Sì. È come se noi chiamassimo dei cantanti di Sanremo e gli dicessimo: no, tu adesso ti vesti in russo, balli secondo queste cose, devi cantare tutta la tua canzone in russo, eccetera. Cioè, immaginatevi il tipo di produzione che c'è dietro a questa cosa e l'impegno, perché poi quando guardi la trasmissione, come dice Michela, è incredibile anche l'impegno che gli stessi sì. cantanti ci mettono sì. nell'interpretare e il ruolo del cantante anni 80 italiano. Sì, infatti loro erano molto la coppia, poi questa coppia che andiamo a presentare adesso era tipo Barbie e Ken, insomma, quindi ci stava sì. proprio, però fantastici, anche perché si sono prestati, nonostante la difficoltà del, diciamo così, della traduzione, a cantare questa canzone, che poi c'ha un testo assurdo. Io adesso ascolterei il russo sì. e poi non vi toglierei la sorpresa dell'ascoltarlo in italiano, perché vi dico che però letteralmente la traduzione più o meno ci sta, quindi poi dopo sentirete la traduzione. Ограниченный тираж. Мы с тобой боль поиграем, но не в консоль. cosa veramente vantaggiosa di questi brani è che durano poco tutti quanti e ci hanno il ritornello molto veloce, cioè nel senso arriva praticamente quasi subito. Da noi invece la differenza è che prima che arrivava il ritornello, allora, di solito, tanto che la sentiamo sotto, ti dico che la canzone intanto si chiama Crash, quindi è una canzone che prende il titolo da una parola inglese e che è strano per loro, è famosissima in Russia, quindi loro sono strafamosi. Tra l'altro lui, il cantante, cioè è proprio un nazi fasci, cioè c'è proprio un aspetto veramente terribile e non c'è niente di nuovo in questo, insomma. I giovanissimi la adorano e usano questa parola crush per indicare la persona per cui si ha una cotta e per cui è ragazzino, cioè quando sono innamoratissimi, insomma. È una delle canzoni di maggior successo fino ad oggi di questa coppia. Convieni con me, Michela, che purtroppo il finlandese, il tedesco, lo svedese, il russo sono svantaggiati dal punto di vista musicale. Perché... No, vabbè, ma guarda che poi quando cominci a entrare un po' nell'ottica del russo, forse perché un po' lo conosco. Vabbè, dai, è brutta. Io voglio bene. Con quello sono Clava Coca e Neletto, e in italiano sono stati tradotti con Neletto Niletti e Claudia Cocca. Non vi rovino la sorpresa della traduzione. Che si capisce il cazzo quello che dico. Già solo vedi lui come canta diversamente. Io strozzo a te. Giochiamo ma non con la console. No, con la console. Oh ragazzi, Sinte a tutto spiano qua, Sì, ma mai visti allora, lui? Il lavoro. Sì, hai ragione. Ora che me l'hai fatto notare, ti devo dare ragione. Anche cioè, nel senso l'adattamento, lui come canta. Poi è vestito come Ken, cioè ragazzi, Barbie e Ken loro due. Fantastici, cioè io già quando poi ho scoperto questa cultura scopereccia, i russi ce l'hanno da sempre, da sempre. Sì. Scappi da me, via e bologna, sarà come un sogno, venivo da te, sono lecito tuo, ti ho sciolto in mente. No, non sei nemico, ma non sono amico, io sono maniaco, io strozzo a te, tu sarai sempre mio, senza te io non vivo, io posso scappare a me le gare. Non sei nemico, poi diciamoci la verità. È la canzone tra tutte quella che si capisce meno di tutti. Sì, perché le altre, alcune si capisce qualcosa, ma ci stanno alcune che non si capisce niente proprio. Lì dipende, secondo me, anche da quanto sia portato uno per le lingue. Esatto, ovviamente hanno fatto un corso, immagino, brevissimo, gli hanno fatto sentire come doveva suonare in italiano, ma questo te ne accorgi anche durante la trasmissione. Cioè, lui, il presentatore Giovanni Ungaret, ha un accento italiano fantastico, incredibile. In certi punti non ti rendi neanche conto che è russo. Altri quando parlano li senti che parlano così, no? Sì, è vero. Cioè, il loro accento salta fuori, quindi è anche un po' predisposizione. Anche in questo caso ci sono dei cantanti che si sente che sono più predisposti, altri meno, alcuni quasi perfetti, devo dire. Poi magari li sentiremo nelle prossime canzoni, ma alcuni veramente hanno cantato anche in un italiano che sembra veramente dei cantanti italiani dell'epoca. Sì, diciamo che questi due hanno fatto il minimo indispensabile, proprio perché secondo me sono stati bravi. Se la sentivano galla, cioè nel senso, noi qua siamo delle star, ci stiamo a fare un favore. Quanti rubli hai dato tu me? Vuoi presentare tu il secondo, cioè il prossimo cantante? Ricordami qual era il prossimo. Johnny la cometa. Johnny la cometa, ecco. Allora, questo posso dire una cosa io? Solo una cosa al volo, poi parla Carlo. Il video, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso nella versione russa originale. Okay. Il videoclip è una cosa meravigliosa. Di sti due che stanno lì, aspettano sta cometa. E poi io non ho capito perché quando nella metropolitana la gente scappa, lui ride. Perché ride? Non lo so. Non chiede. Tu non chiede. No, guarda. Infatti, ma io non chiedo. Hai ragione. Vai, Carlo, scusa. No, allora, in questo caso, ecco, uno dei pochi casi, ce ne sono credo due, se non sbaglio, dove il nome vero corrisponde col nome con cui viene presentato, perché andava già bene. Questo è Johnny, no? Johnny, infatti Johnny. Si chiama Johnny sia in originale che Johnny nella trasmissione. E anche il titolo della canzone è praticamente uguale, perché La Cometa in italiano è Cometa con la K in russo. Lui è un artista famosissimo, cantante russo di origini azere, che non oso pronunciare il nome originale perché per me è assolutamente impronunciabile. Andatevelo a cercare. Kahid Efrail Oglu. Certo. Yuseli. È proprio lui, io quello lì stavo a dire. Johnny, si chiama Johnny, e anche vaffanculo. Ce lo fanno andare bene. No, è bellissimo il video, ragazzi, recuperate il video e guardatevelo, perché a parte anche lì sono due bellocci come al solito, vabbè, insomma. Però ecco, c'è sta cosa sta cometa, è bellissimo, insomma. Vabbè, che faccio? La mando? Allora, sì. Vai. Quella russa. Quella russa, vado con quella russa. Без тебя не так, лечу к тебе словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя ты ко мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя. Пистоletta. Diciamo che la traduzione anche qua è abbastanza fedele, sì. Letterale, sempre letterale, però fedele. Io continuo a sostenere che questa cosa è una cosa voluta, secondo me. Diciamo che i miei professori dell'università morirebbero, secondo me. Mi piacerebbe sentirli. Sì. Però vabbè, dai, è divertentissimo. Noi tra il nostro giro dei ragazzi, vecchi ragazzi, ormai siamo grandi. Siamo morti. Quindi, insomma. Vai con la versione italiana, perché anche qui noterai subito la produzione musicale estrema che c'è dietro, perché oh, Sanremo che sbatte. Senti, già subito. Sì, sì. È vero, è vero. Din, din, din. Ma anche visivamente, senza te, volo da te come una cometa. E anche sotto una berretta troverò te. Vabbè, faccelo sentire. Troverò te. Senza di te sto meglio, avvicinati a me e dai. So che questo estate sarà nostra, pensi mia, pensi mia. Sto male senza te, volo da te come una cometa. E anche sotto una berretta troverò te, troverò te. Allora, qui io devo dire, ragazzi, che la compressione in MP3 di questi brani, che non sono sono in MP3 a 128 kilobit, quindi diciamo anche li penalizza molto, perché qui c'è veramente un lavoro dietro, sì, che andrebbe sentito un po' più esteso, diciamo. Ma così, anche visivamente nel video, insomma, costi praticamente veramente sembra un Alessandro video. Baldi della nostra video 2.35 formato cinematografico, curatissimo, insomma. Vabbè, ragazzi, ma poi anche sotto una beretta lui troverà lei, Ma la beretta sarebbe la pistola, sì, okay. Beh, ma loro sono coraggiosi, no, vabbè, è terribile questa cosa dei russi, ragazzi. Senza di te sto meglio, avvicinate a me, so che questo è stato sarà nostra, perché sei mia, perché sei mia. Sto male senza te, volo da te come una cometa. Io mi domando sempre questi che Che se so detti? Cioè, quando gli hanno proposto sta cosa, detto, ma che stava a fare? A me mi sembra che loro si sono divertiti tutti tantissimo. Da quello che ho visto. Ho letto qualche dichiarazione di qualcuno. Sì. Ho letto, se non sbaglio, quella di Dora, no? La ragazza, okay, quella più giovane. Che appunto ha detto che il lavoro, quando gliel'hanno chiesto, eccetera, lei si è resa disponibile proprio perché anche lei, che è giovane, che è giovanissima, non so se poi l'ascoltiamo, quella di Dora. Dora non l'abbiamo messa perché un paio l'abbiamo. Volendo ce l'abbiamo, magari sì, però, ci chiudiamo. Dai. Eventualmente sì, le mettiamo dopo. Tanto perché... fa tutto in tempo reale qua. Quindi... Lei è una ragazzina del 99, cioè così, dai, quella che somiglia un po' alla la cosa lì, come si chiama, la nostra cantante giovane, che dicono che ci somiglia anche. Quella che aveva vinto X Factor. La Michelin. Brava, esatto, una specie di Michelin, sì, russa. Sì, sì, sì. E ha detto che gli piaceva proprio perché i suoi genitori, i suoi nonni, cioè, lei è cresciuta comunque, certo, col certo fatto che tutti ascoltavano questo tipo di musica, quindi per lei era un po' è come se dicessero a una ragazza di oggi di interpretare, non so, le ragazze del Piper lì, le nostre cantanti, sì, degli anni 60, piuttosto che c'è quasi un omaggio ai genitori, tu dici. Ai genitori, esattamente. Ma è molto sentita questa vicinanza alla cultura italiana, secondo me. Io l'ho sempre vista come non come una cosa brutta, anzi, a volte. Lo sai, magari tu dici da ragazzini, ti ricordi che comunque i tuoi genitori canticchiavano quelle canzoni, e ritrovarti a fare questa cosa, magari 20 anni dopo, 30 anni dopo, e ti suscita magari dei ricordi, no? Delle cose, sì, importanti. Sì. Cioè, io vi posso dire una cosa: che io ho preso 45.000 taxi, che poi non erano proprio taxi, diciamo taxi. Chiamiamoli così. Sei buona, io ho preso i taxi in Lituania, ragazzi, che esplodevano. Cioè, è tipo, vabbè, è gente normale che in qualche modo metti d'accordo sul prezzo, però è molto sicuro, almeno all'epoca era molto sicuro. E io vi giuro che tutti quelli che mi hanno chiesto "Atkudati", cioè "di dove sei", e io gli ho detto "Italianskaya", e tutti mi mettevano Toto Cutugno, Pupo, Laura Pausini, quindi tutti avevano una cassetta di qualcuno, di qualche cantante italiano, cioè, quindi non si scappa da questo. Ricordiamo anche, questo lo dico magari per i più giovani che se lo ricordano, che c'è sempre stato anche un vincolo molto culturale importante tra Italia e Russia, soprattutto ai tempi del PC, perché c'era comunque questo, sì, scambio continuo, questo flusso di persone che venivano da una parte all'altra, quando stavamo parlando anche noi avevamo un flusso, sì, di persone, sì, che appunto, cioè, nel senso, noi eravamo i più comunisti dei paesi democratici, sì, d'altronde era il partito più grosso a livello occidentale, cioè. Sì, sì, è vero. Quindi niente, dai, io direi che c'è la quarta canzone, ragazzi. Allora, la quarta canzone, è anche questa, nel senso, tranquilla, diciamo, non c'è niente di particolare, però alla fine, anche solo come è stato tradotto il duo Arctic e Asti, quindi quasi simile, perché nel programma Ciao 2020 l'hanno chiamato Bambina Arti Balla. Scusa, Arti Asti, mi sono confusa, scusate. La canzone originale è Dievuchka Tansui, che vuol dire ragazza balla, e quindi da intendere come imperativo, non come indicativo, cioè non la ragazza sta ballando, ma forza su, muoviti e balla. Sentiamo la versione russa. Надеваешь каблуки уже не для него, не отвечаешь на звонки в душе цунами, ну. Ты так-то не возьмет руку, даже если трясет воспоминания по кругу. Да пошло оно к черту все, номер его в блог, в инстаграме в бан. Он явно не тот, кто был богом дан. В душе зима, снегом замело, этой ночью не до сна, но ему назло. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро, разгоняй тоску. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Che poi diciamoci la verità, è sto poppetto così che alla fine ti fa venire voglia, comunque ti muovi quando l'ascolti, sì. Un po' ti fa... Io ho capito solo Instagram comunque, cioè... Sì, Instagram e sì, sì, sì. Ho capito solo quello e sono sì, orecchiabili. Ti riprendo, anche se a lei un po' di effetti di meno nella voce magari sarebbero, perché sono sparatissima con questo riverbero dietro, insomma, che è una cosa particolare. Quelli fighi, quelli bravi avrebbero fatto il mix tra le versioni italiane e quelle russe. Non è detto che non arrivi, però io cosa. No, no, nel senso, io avrei dovuto fare la regia in quel modo lì, però ragazzi, non mi chiedete di fare cose per le quali non sono competente. I diciamo, potenti però. Mezzi. No, i mezzi ci stanno, so io che non so, cioè, nel senso, se no facevo il DJ, insomma, facevo. Ah, non fai il DJ? No, non faccio il DJ. Io direi che a questo ascoltiamo punto... la versione italiana. Cioè, senti che... subito com'è. Sulle note tristi, proprio. Che tra l'altro poi lei entra su una luna, è riferimento anche a, al vincitore di Sanremo. Diavole. Praticamente è una ragazza ossessionata da qualcuno e no, quindi Instagram, Facebook, senti, eccetera. Il ritornello è incredibile, cioè sì. non diresti che sia una canzone di adesso. È vero, lo stavo pensando anch'io. È vero. Lo stavo pensando, in effetti stavo pensando anch'io che a questa cosa che sembra una canzone scritta da un autore italiano. Esatto. Dai, questa non la so bene. Vabbè, non la sai, dai. Ok. Fantastico. Cioè, ragazzi. Allora, sì, Girasole ci chiede: mentre cantano in italiano, mandano assolutamente i sottotitoli in russo. Allora, i sottotitoli in russo sono presenti su tutta la puntata. Quindi, cioè, è chiaro che questa è una trasmissione esatto. che comunque è in onda su una televisione russa, dove i russi comunque non è detto che conoscano l'italiano. La maggior parte di loro non ma è chiaro, conosce. È chiaro, insomma, anche sì. però io dico che comunque essendo sottotitolato tutto, sì. o è tutto un copione, oppure loro prima l'hanno registrata e sì. poi l'hanno sottotitolata e mandata. Quindi c'è, cioè, nel senso, allora, le canzoni allora è una produzione che si vede che è progettata, sì. studiata a tavolino sì. e fatta esatto, sì. da Dio, sì. veramente benissimo. Sì. Quindi è chiaro che è tutto progettato. Riguardo al fatto che sia dedicata al mercato russo, eccetera, siamo noi che la italianizziamo molto vedendola, perché anche sul discorso della satira, siamo noi che diamo della satira magari dove non c'è, quando per loro è un omaggio, per è noi vero. È satira, perché noi andiamo a pensare a quello che noi abbiamo fatto negli anni passati. O come l'avremmo fatta noi, esatto, certo. Sì, è vero. Sì, sì, è vero. Lì la satira, come per esempio. L'abbiamo accennato prima, non l'abbiamo spiegato, la spiego bene così, giusto per dare una contestualizzazione, no? All'inizio c'è questo comico che ha la spalla di Urgant nella trasmissione, che entra e che dice la battuta e tutti si mettono a ridere e dice: una volta, a proposito di Como, io una volta ho preso un taxi e mi sono svegliato sul lago di Como. E tutti si mettono a ridere. Sì. Per noi è una cosa, cioè non la capiamo, ridiamo perché è un'assurdità, una specie di umorismo assurdo. In realtà è una battuta dedicata proprio al pubblico russo di Urgant e alla Russia, perché quel comico lì, pochi mesi prima, era andato in coma, ha preso un taxi, era stato male, era svenuto nel taxi, sì. e il taxi l'ha portato in ospedale, dove in ospedale si è ripreso subito dopo, però nei giornali russi era uscito che lui era andato in coma, aveva il Covid, insomma gli avevano tirati dietro di tutti i colori, quando non era vero. E allora lui scherza su questa cosa perché Como in russo, pronunciato così, Como, vuol dire coma. vuol dire con la O, sì, dice, sì, legge la O. Ho preso un taxi e mi sono ritrovato in coma. Questa storia è figa. Quindi certe battute in realtà noi non le capiamo. Anche... Non le capiamo, ma questa è solo una, ce ne sono tante altre. Sì, perché non è dedicato a noi, certo. Quando c'è il terremoto, oddio, il terremoto, perché siamo vicino al Vesuvio. Là, oddio, mi sono sentita un po'. Un po', oh mio Dio. Però dobbiamo dire anche che non è, cioè, oltre ad essere una comicità dedicata a loro, non è comunque la nostra comicità, cioè, nel senso, poi ogni linguaggio, ogni forma, insomma, c'ha la sua, c'ha però questa di como e coma, se la attualizzi, sì, e la pensi come se fosse una versione italiana, ci sarebbe stata anche da noi, perché loro giocano tanto nella trasmissione anche tra le parole italiane che in russo vogliono dire qualcos'altro. È vero. Uno di questi è il cantante, quello che è un comico famosissimo russo, quello che canta con la chitarra, che è anche bravissimo, anche quello, sì, incredibile, la, sì, bravura di quello. Mamma mia, bravissimo. Fa una specie di canzone travisata in russo, cioè praticamente canta una canzone in italiano dove però le parole italiano in italiano sono parole che in russo vogliono dire qualcosa tipo gli dice a Enrico Carlacci Enrico Carlacci dice, cantando in italiano gli dice delle parole che in, sì, russo vogliono dire sei un deficiente, sei un cretino, una roba del genere, no? Glielo dice, sì, infatti lui dice tu puoi lasciare e tu puoi lasciare, che in realtà significa stupido sfigato in russo. Esatto. E si rivolge con la faccia verso Urga, stupido, sì, sfigato, e tutti si mettono a ridere. Anche, ma poi tra l'altro lui è bravissimo, cioè quel cantante è veramente bravissimo, classico cantante russo, si sente proprio con quel vocione molto intenso. Beh, andiamo con la quinta canzone, che è una canzone che a me mi ha fatto volare, e tra l'altro poi, sì, nel senso, a me mi ha fatto veramente, ce n'è una tra le ultime che hai messo che è veramente bella, però devo dire, riconoscere. Che penso sia la canzone degli anni 80-90, sì. Sì, è sempre riferimento ai film russi. Poi bellissimo il video, lì veramente si vede proprio la cultura cinematografica. Sì. Sì. Vai, scusa. Allora, questa la presenta Carlo, che la prima ho presentata io. Sì, Piango alla tecno, fantastico, sì, questa qui, Piango al tecno è incredibile. Sì, Piango sulla tecno sarebbe il titolo originale, sì, russo, non lo so pronunciare ovviamente. Il gruppo si chiama Cream Soda, che è una parola ovviamente americana, vengono tradotti nella versione italiana con crema della soda, sì, in italiese. La canzone Piango al tecno è una canzone che lì in Russia ha avuto successo nei mesi scorsi durante il lockdown russo, nella prima ondata del Covid, e dove si vede che i russi cantavano e ballavano sui balconi, come, sì, noi in Italia, uguale, praticamente questa è una canzone che nel video russo originale ci sono loro che cantano e ballano sui balconi, perché erano durante il lockdown del Covid-19. E veramente questo mi ha fatto anche vedere quanto, anche nel video si vede un quartiere popolare, di case popolari russe, che sembra di andare, non so, a Sesto San Giovanni, sì. Posti qua intorno a Milano, insomma, l'edilizia popolare. Mi fa piacere, perché l'edilizia popolare può darsi che è migliorata in Russia negli ultimi 20 anni. Era bellissima anche prima, non rompere le balle, no, no, raga, ve lo dico, non si poteva respirare. Andiamo, come si intitola la canzone, aspetta, in russo? A parte quando io poi ho visto il video originale, ho scoperto un personaggio che poi dopo approfondiremo. Sì, e poi troveremo in altri video, quindi ho capito che è proprio un personaggio che tutti adorano, che è Giovanni, sì, Pafuto, cioè Giovanni Pafuto, mito ovunque. C'è una cosa da dire sulla coreografia di questa canzone, che nella versione italiana è qualcosa, sì, di fantastico. È vero, ma vedere. Intanto sentiamo la versione russa, poi dopo parliamo da versione italiana. Che si intitola? Piango sulla tecno. La versione russa, Plash una tecno. Ok. И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут. Пальцы твои, как год назад, но рядом ноги уже не мои. Топчет знакомый мне грув, ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе листья мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Белый лобус играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно. Che poi mi domandavo dove è sta techno. Eccola. E poi arriva la techno. Come tutte le canzoni da discoteca che si rispettano, prima devono creare l'hype, poi parte. È lungo sto hype, però. Nel frattempo la gente si è addormentata. Ma questa è quella col video con i monitor giganteschi o tutta no, un po' sai fare? No, no. Cantano sui balconi. Ballano sui balconi, ah, okay. E sotto ci sono i tipi che puliscono le strade. E qual è la? Ah, sì, ho capito. Sì, sì, ok. I tizi che passano, ok. Sì. Che passano il disinfettante. Sì. E invece qual è quella che c'è tutti i monitor e cose? Dovrebbe essere la prossima o quella dopo, okay. Ancora. Allora, intanto vabbè, io farei una menzione d'onore perché veramente la scenografia di questa performance in italiano è degna dei migliori registi tipo Sorrentino, il New Pop, scusa, sì, sì, sì. Ho avuto un momento di lapsus, sì, cioè sì, ci Sorrentino. Stanno tutti, c'è il Papa che balla, la Guardia Svizzera, c'è anche la signora Versace, poi Madonna. Non mi ricordo, i poliziotti, come? Madonna, sì. Veramente ci stanno tutti che ballano la techno, insomma. Eh beh, d'altronde la techno e quindi. Quindi il techno è un locale. Senti le gocce che scendono. Ma soprattutto senti la batteria. Sì. Siamo negli anni 80, ragazzi, qua. Io eri solo mio, Lilla Love suona per voi, le lacrime sono pronte. Piango al tecno, io piango al tecno, non sei con me, l'acqua cade al rave. Piango al tecno, io piango al tecno, non sei con me, l'acqua cade al rave. Piango al tecno, io piango al tecno, non sei con me. Questa, ragazzi, aspetta, c'è un pezzo fantastico. È la disco anni 80, ragazzi. C'è un pezzo in cui lei fa proprio un suono onomatopeico. Questo è disco anni 80, ragazzi. Sì, sì, sì, proprio. Bianco forte, lacrime sulle guance, dalle guance blop blop sul mio nuovo. Pure onomatopeica, quindi lei, ho capito. Grande, grande, grande, grande personaggio. Sì. Questo è che quando dice a rave, non dice a rave, dice la a rave, la cocade a rave. Piango al tecno come se fosse il tecno fosse un locale, poi senso. Sì, credo sia qualcosa del genere, anche se la canzone te dice piango sulla tecno, piango mentre va la musica tecno. Okay, okay, io piango. Sì. Quindi vabbè, è proprio una traduzione. Sì, diciamo che la canzone è che il significato è che durante il Covid erano tutti relegati, quindi non rimpiangevano il fatto di potersi ritrovare, ballare insieme, eccetera, e ognuno ballava sui balconi. Certo, la tecno. Questo è il senso della canzone originale. Che, la tecno, però, che in Italia non si balla più nelle discoteche da 15 anni, penso, insomma. Vabbè, ma non è detto, non è detto. Allora, quello che volevo far notare è la traduzione italiana, quindi il testo. La musica che c'è sotto, che è anni 80 in una maniera discodensa, esatto, anni 80, esatto, perfetta, e il video, come ha detto Michela, con queste persone vestite da Papa, Guardia Svizzera, eccetera, che ballano, lei come tu, cioè è un capolavoro. Veramente, guardatevela, sì. Veramente un lavorone questo, cioè ho detto degno di qualsiasi regista. Fantastico, fantastico. Io sono profondamente orgogliosa di aver scoperto questo programma. Che è una settimana che rompe i coglioni dentro casa. Ma scusate, del gergo un po' così, che in russo significa. Ha ragione. No, ma ogni vai volta diretta. La sera che va, quando vado a dormire la sera, c'è lei con sto cellulare. Vabbè, a un certo punto dice: no, perché devi ascoltare, devi ascoltare. E vabbè, no, che ci sta, perché ci sta assolutamente. Bene, allora io direi che c'è la sesta. La sesta canzone è un duo improvvisato, no, improvvisato, diciamo che è un duo famoso in Russia, che ha unito praticamente pop rap, diciamo, a genere di musica classica. Quindi c'è questo tenore diventato famoso in Russia che canta praticamente con cantante lirico, che canta con questo ragazzino che non c'ha neanche 20 anni, che è una stella di TikTok. E, e insieme cantano una canzone che si chiama, in russo si chiama Dico Tu Sim, che vuol dire facciamo festa selvaggiamente, ma in italiano. Scusa, allora, com'è la parola? Dico Tu Sim. Che significa facciamo festa selvaggiamente sotto gli alberi durante la luna piena di notte. No, basta, okay. Selvaggiamente. Sì, ma è un modo di dire, cioè, tipo facciamo casino, una cosa del genere. Oggi c'ho voglia di fare tipo casino. Eva Blast in inglese, quando uno dice facciamo un macello. E la cosa fantastica, io ho visto il video in russo e ho riconosciuto delle location, tipo ho riconosciuto Peter Goff e ho riconosciuto anche l'Ermitage, quindi insomma ci hanno messo i soldoni per girare sta cosa, quindi c'hanno quello. Ma ascoltiamo intanto la canzone in russo. Io senti un rutto, canzone tipica pop di questo periodo, sì. È un po' un trash russo questa, sì, diciamo, questa... che però ha avuto successo, sì. Questa è abbastanza bruttina come canzone. Canzoni brutte qua da noi, sì. Esatto, sì. Esatto, molto esatto. Brutta diciamo, sì. Però devo dire però che nella versione italiana scusa Carlo, non ti sento te che parlo sopra. Che stavo dicendo che si sono impegnati tantissimo anche questi due nel fare la versione italiana, perché sì. Veramente anche qui sono impegnati in una maniera incredibile, comunque. Secondo me. Bene. Ce la sentiamo. E sì. Ecco qui ora torniamo sempre. Io non capisco niente. L'italiano è tutta un'altra storia. È tutta diversa. Qui diciamo che ragazzi non c'è solo un lavoro di riarrangiamento musicale, c'è cioè proprio una ristrutturazione proprio diciamo che la canzone quasi migliora. Ah, più bello. Ma tanto, ma tantissimo. Cioè qua sotto noti proprio che c'è una produzione musicale di qualcuno che se ne intendeva, sì, in una, sì, maniera, sì, incredibile, sì. E l'ha rifatta come se fosse una canzone rap pop degli anni 80 italiana, musicata in una maniera stupenda e li ha valorizzati tantissimo, secondo me. Questa è roba tosta, sì, assolutamente. Devo dire che è veramente, cioè, perché chiaramente dal punto di vista melodico, poi per melodico tra virgolette, soprattutto il ritornello, è lo stesso brano. Il lavoro sì, proprio di ricostruzione proprio armonica generale, devo dire che è tutta una, veramente cazzo, cioè, ragazzi, bravi proprio. come dice Girasole, dice non ci hanno dormito la notte, ma secondo me non ci hanno dormito diverse sì, notti. Sì, no, perché questo è un lavoro, questo non è il lavoro dei 5 minuti, ragazzi, cioè questo è no. C'è un lavoro, ma anche secondo me nell'addestramento del a parte la produzione musicale, chiaramente, però dico proprio anche nell'addestramento dell'artista, no? Perché comunque questo deve rappare in una lingua che non è la sua. Sì. Chiaramente, sì, no? Esatto. E vabbè, infatti fa un casino che è, però ma questo è un ragazzo del 2001, cioè è un ragazzo di neanche 20 anni, 19 anni. Sì, la difficoltà anche di parlare in italiano, infatti si capisce, però io dico che questi, secondo me, quest'estate qualcosa in Italia la fanno, tipo il Festival. Guarda, Bar, l'unica che non abbiamo messa, che è la Dora, quella sì, che poi magari mettiamo alla fine. Lei anche nell'italiano si vede che si è impegnata tantissimo, sì, perché molto, si capisce molto bene il ritornello, sì, e sta nei ragazzi italiani, è quella che in questo momento sta avendo più successo, cioè è quella vero, più ascoltata di queste canzoni in versione italiana. Sì, infatti secondo me a un certo punto dopo ci ritroveremo a Sanremo, non lo so, poi su Twitter imperversa il Toto che fine faranno sti cantanti, perché non, sicuramente non finiranno qua, nel senso che si sono aperti un varco. Secondo me hanno aperto con questa trasmissione, secondo me hanno aperto una porta sul pop russo in sì, Italia. Sì, in canale commerciale, è chiaro, dai, cioè, c'è comunque anche un'intenzione da quel punto di vista. Diciamo che questo cantante lirico che abbiamo ascoltato adesso col TikToker, così si dice, è comunque l'esempio di quanto questo genere di musica in Russia vada molto, e quanto per esempio il volo, per esempio adesso noi che il volo non ce li filiamo proprio, perché cioè per noi è feccia, diciamo proprio, mi dispiace dirlo, ma io non ascolterei mai il volo. Per loro sono fenomenali. Infatti, insomma, io non so cosa sia il volo. È un gruppo lirico di tre cantanti italiani che canta canzoni hip hop in versione lirica. Ho capito. Ma adesso ci sarebbe l'ottava praticamente. Adesso c'è il monitor, credo, adesso se sì, non sbaglio, quella dei monitor, quella che dicevi tu, la Giorgio ragazza Criddi. Copertina Giorgio Criddi, sì, Giorgio Criddi. Lo presento io, vai, questo faccio io. È Giorgio Criddi, è Egor Creed, è un ragazzo anche lui nato nel 94, è considerato la versione russa di Justin Bieber praticamente, è famosissimo, un figo russo cantante che piace alle ragazze e ai ragazzi russi, e quindi sempre in classifica con canzoni che hanno molto successo lì. In questo caso viene tradotta la sua attuale ragazza, la sua attuale, scusami, canzone che si chiama Ragazza Copertina, la traduzione italiana, che ha il russo, il titolo uguale in russo, Dovoshka Skartinki. E l'attrice, che il videoclip è, si vede i soldoni qua nel videoclip sì, russo originale, perché si vede un video con una produzione sì, cinematografica. È quella che dicevo io, una sì, storia con tutta la ragazza che è protagonista del videoclip è l'attuale fidanzata di questo ovviamente Igor Creed, praticamente ovviamente una modella anche qui famosa in Russia, cioè. Molto bella. Quindi andiamo ad ascoltare la versione originale russa. Эта девочка с картинки, мне так нравится на волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, но она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки. Какое нафиг платье ей по душе спортивки. Ты вышел с чата, ведь ты для нее ошибка. Она уйдет в памяти, оставит лишь обрывки. Зайдет на пати, и там все перед со сливки. Эта девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. Сердце пуль как глок, пью, ты для нее не готов. Тебе в голову лезет эти строки для песен. Она не рядом, да бесит, но раз влюбился, добейся. Эта девочка с картинки, мне так нравится на волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, но она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки. Diciamo che a lungo andavo e alla fine queste canzoni sono, diciamo, sì, è pop, si somigliano tutte, cioè nel senso. Ma questa poi nel video c'è. scusa, io non sento, quindi... No, stavo dicendo... Scusami, vai. No, no, stavo dicendo che anche qui vedremo, questo è il classico pop commerciale, no? Come hai notato tu, poi ci sono i soldoni che girano, perché il video praticamente è un film, sì, sci-fi, tra tipo di azione russo, eccetera. E, ma anche qui, adesso che sentiremo la versione italianizzata, noteremo l'incredibile lavoro, anche in questo caso, che è stato fatto nell'italianizzazione, perché è diventata una canzone pop anni 80 italiana. Perfetto. Molto bella. Ragazza, no, dicevo che poi il video io me lo sono guardato tutto, perché c'è proprio una storia di hacker che sì. Quindi è veramente anche fatto bene, un bel video, insomma. Sì, ma ascoltiamo la versione italiana, perché quello che sta andando sotto intanto so la parte recitata del videoclip, perché noi da lì l'abbiamo presa, e ci sentiamo quella italiana. Dai. Senti qua, basta. Ero Festival Bar de quando ero bambino io. Bravi. Sta ragazza copertina. Sta ragazza. Sta ragazza. I capelli, la sua bella molettina. Non separatemi, mi di mia bambino. Io amo lei. E lei ama seretina. Ragazza mia. Ragazza copertina. Via il vestito, le piacciono le tutte. Vai via dalla chat. Deve stare molto, poi se ne andrà. I ricordi son perduti. E a questo party farà colpo a tutti. Sta ragazza è top, wow. Melo di Photoshop, sì. Colpi da una Glock. Piu. Non si perde i fuck, yeah. Nella testa entrano queste righe del canto. Lei non qui si cazzo, cazzo. Se le vuoi faccio il mazzo. Sta ragazza è copertina. E nei capelli la sua bella moglie. Beh, lui parla come parlano gli popari italiani. Quindi c'è, anche qui c'è uno studio, cioè, alla fine. E lei ama Serratine, credo sia una cosa del genere. Serratina, dice, lei ama Serratina. Non ho capito, tira sole. Non ho capito perché nei capelli c'è la bella monetina. Questa vabbè. Comunque, diciamo così, il tema fondamentale sono mignotte e soldi, fondamentalmente. Perché ai russi gli piace sta roba? Vabbè, ragazzi, questa era. No, veramente. Hai notato poi... la produzione musicale in questo caso è pazzesca, sì, qui. Cioè, sì. Veramente. Ma anche la scenografia, anche qua, cioè con un bel balletto, sì. Fatto bene. Veramente cose da buon programma anni 80, diciamo così, medio programma, sì. Anni 80. Ti senti male da ridere? Sì. Guarda Olivia, io quando ho scoperto sta cosa proprio sono morta, quindi ti capisco bene. Si sta sentendo male da ridere addirittura. Benvenuta tra noi, compagna. Delle opere d'arte altrui, ragazzi. Non è una cosa bella. Ma diciamo che questa veramente tutta la trasmissione, cioè, a me mi mette un'allegria, una gioia, non lo so, sarà che sono molto orgogliosa che venga dalla Russia questo genio, però insomma mi piace tantissimo, veramente sono molto ammirata. Io diciamo che c'è la prossima canzone che c'ha un titolo, ragazzi. Allora, prima della prossima canzone, in realtà i personaggi che poi sono intervenuti, perché questa mi sa che è l'ultima. Che si questa è l'ultima, poi vabbè, la facciamo sentire una delle. Sì. Cioè. Però io in realtà volevo fare una menzione d'onore per i piccolo grandi, che in realtà sono i Little Big, piccolo, che, grandi. Piccolo grandi, che hanno spopolato in diciamo all'Eurovision del 2020, portando anche Girolamo Paffuto. Ah, 2019, scusa. Portando con loro anche Girolamo Paffuto, che balla tutto il tempo. Questo personaggio, vabbè. Che penso sia un personaggio jolly, che sta un po' in tutti i video, e loro praticamente fanno un cantano una versione techno di Mamma Maria, quindi insomma, in cui ci sono quattro ballerini techno che ballano la Unz, cioè veramente una cosa impressionante. Io quando ho visto quel pezzo sono rimasta, sono morta. Io non lo so quello che hai pensato tu, Carlo, però. Ah sì, anch'io sono morto completamente. E non solo, questa canzone è un omaggio incredibile anche ai successi italiani in Russia, sì. Mamma Maria lì la conoscono tutti praticamente in, sì. Purtroppo anche in Russia tutti, sì, tutti vabbè che tutti. La conosciamo tutti anche noi questa, sì. Veramente, dire la verità, però sì, è un vero. Successo dell'82 dei Ricchi e Poveri, la versione che hanno tirato fuori Little Big in versione tecno, come si tecno Damarra specifico. Sì, Tecno Tamarra, ma in realtà ha un nome specifico di questo tipo di tecno che adesso non mi viene più, purtroppo ragazzi non sono un esperto di questo genere, non sono un disc jockey, però ha un nome che adesso non, in questo momento non mi sovviene, che è poi il genere che ballano quei quattro ballerini pazzi che si vede lì davanti, che ballano come dei forsennati. Sto cercando ma non riesco a trovare la versione. Bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV. Come fai a non mettere un pezzo del genere? Mamma Maria, ma... ragazziero, ragazzino, quindi mi commuovo tutto questo, insomma, vabbè. Dai. Allora, diciamo che poi, vabbè, ci sono questi quattro ballerini che ballano e quindi ti ipnotizzano, cioè tu non puoi fare altro che restare lì a guardare questi ballerini con la bocca spalancata e questi personaggi assurdi e poi soprattutto alla fine della loro esibizione c'è uno dei presentatori che gli dà un premio e un diploma vabbè così perché loro hanno partecipato in riferimento proprio a questa Eurovision e poi uno dei cantanti dice una frase che a me mi ha colpito molto, che poi in realtà penso sia sempre riferita alla partecipazione a questa Eurovision. Noi l'abbiamo fatto per il Sacro Romano Impero, una cosa del genere, che esatto. Io lì sono morta, cioè, ho detto l'onore dell'impero romano. Sì. La cosa assurda è che questo tizio qua, uno dei tre, somiglia incredibilmente ad Asterix. Se tu lo sì. guardi sembra è vero, Asterix lui. Un uomo, è vero, ridere anche per è questo. Vero. E vabbè. Ragazzi, no, l'ho messa perché. E poi dopo, comunque, gli altri due extra ce li sentiamo perché non ho preparato le versioni russe perché chiaramente in realtà erano solo. Ma vanno bene pure italiani, cioè erano solo queste otto canzoni di cui adesso andiamo a sentire. L'ottava, allora l'ultima canzone sarebbe Che sia il frassino, cioè nel senso, ragazzi, che cazzo. Ah, la chiusura. Allora, certo. Senti, io direi che a sto punto, se ce l'hai allora, pronte, sentiamo le altre due e poi chiudiamo okay. col frassino perché ci ragione. Stiamo veramente. Allora, sai che ti dico, andiamo a memoria, vediamo. Pam, pam, pam. Ma tu non mi saluti, nascondi il sorriso. L'adora. Che ora scopri segreto. Ti mando degli impulsi, non sono indifferente, ma non un amore. Che bello innamorarsi, infiammarsi, incrociarsi. Incrociarsi, ma io stessate questa qua la voglio su tutte le spiagge. Cioè. La voglio, ma arriverà. Allora, questa la Dora. Questa è la più bella di tutte. Perché dicevo che no, il nome è uguale in italiano e in russo. Sì. Ascoltiamo ancora un po', poi. Poi la coreografia dietro con i ballerini che fanno praticamente, cioè tipo i ballerini che tornano indietro, si fermano. Io sto con l'accendino in mano, Fantastico. E qualcosa nella testa che per eroso io chiamate amore, stupido, dopamine. Allora, secondo me quelli della mia età l'apprezzano tre volte tanto perché ritorno a un'ingenuità, a una semplicità, no? Che poi alla fine era l'età quando eri ragazzino, no? E quindi anche senti queste. Pure le tematiche, no? Poi alla fine sono veramente cose. Se noi pensi oggi a come ci siamo incattiviti, come siamo tutti arrabbiati, tutti stronzi. E invece, cioè, cazzo, questa canzone. nella sua semplicità musicale, chiaramente è pop, è quello che è, però è bella da sentire. Sì, no? Ma poi lei arriva tutta con sto parruccone rosso, tutta vestita di sì, rosso. Incredibile. Veramente si impegna tantissimo, poi cioè, la vediamo tantissimo, proprio appassionatissima, veramente. Questa qui è una ragazzina, come ho detto, del 99, sì. Si chiama Daria Shikhanova. Non so come si pronuncia in russo correttamente, perdonami, ma in russo si chiama Dora lei, ed è una cantante famosa come la Michelin da noi, in pratica è una versione della Michelin russa, ma l'impegno dell'esibizione che fa in italiano traspare proprio l'impegno che ci mette, anche perché è una delle poche che ha una pronuncia italiana molto sì, molto corretta sì, rispetto sì, agli altri, cioè è quella che si capisce di più di tutto, sì. Perde la tua testa, perdere la tua testa, esatto. Fantastico. E che bello innamorarsi, infiammarsi, incrociarsi, perdere la tua testa, fulminarsi e bruciarsi, cioè non è manco facile, poi se tu ci pensi, tutto sommato, no, assolutamente, come consecuzione di parole una appresso all'altra, sono tutte parole abbastanza complicate, anche un italiano normale si potrebbe impicciarsi. Menzione d'onore per i ballerini che l'accompagnano, perché sono fantastici, io veramente le ho adorati, perché comunque poi tutti si impegnano in questa, non è giusto, questa è la mia preferita, sì, credo, di Giulia Zidetti. Per stare sole cazzo deve che ta sette, compra il biglietto, scappa in silenzio, non complicare. Giulia Ziverti. Non son chiare, Giulia Ziverti. Sembrano vere, ma sono amare. Mi opprime l'atmosfera, è infinita questa sera. Ognuno infatti ha bisogno di qualcuno, ma succede anche che non serve più nessuno. Ognuno infatti ha bisogno di qualcuno, l'affetto di farfalla è l'astrato di qualcuno. Ognuno infatti... Oh, chi come me ha smanettato, ragazzi, riconosce il suono secco della batteria Korg, del sintetizzatore della Korg. Cioè, sì, diciamo che il titolo di questa canzone è uguale sia in russo che in italiano, questo è da dire. Sì, credo. Allora, questa Zivert, che in italiano è tradotta come Giulia Ziverti, sì, si chiama Giulia Zivert, ed è una delle cantanti russe che in questo momento, che canta in russo, sta avendo anche un successo internazionale. Sì. È molto molto brava, se guardate sì, anche la versione, Zivert in russo, anche questa è una canzone veramente molto bella, molto fatta bella, bene, anche sì, il testo, se lo leggi è, tra l'altro lei è molto bella, anche la cantante, insomma, quindi beh, i russi sono tutte buone, sì, sì, ma a parte quello, ma diciamo che la si vede anche in questo caso l'impegno che ci mette nella pronuncia in italiano rispetto agli altri, e soprattutto lei ha fatto un'esibizione con le spalline giganti, con quelle sì, due ballerine dietro, coi panni eccetera, che è stata costruita, se non sbaglio, su un video di una canzone di Io sono in italiano, chi è che la cantava? Dai, aiutatemi. Toto Cutugno. Di Toto Cutugno. Ah sì, perché c'è tutto, lei fa la vendemmia. È vero. No, ma lui andava con quelle giacche, vi ricordate, con gli spallettoni? Sì, sì, sì, sì. Ma anche il fatto che ci sono gli panni stesi dietro, eccetera. C'era una canzone, un video di Toto Cotugno, e lei si è ispirata a quello per ricostruire la, diciamo, la. E anche qua, per secondo me, in questa canzone, e forse in qualcun altro, c'è lo zampino di lei stessa, cioè della cantante stessa, che ha dato suggerimenti sull'interpretazione, su come doveva essere fatta la versione italiana, perché si vede che è proprio impegnata nel personaggio dentro, lo vedi anche all'interno della trasmissione, a parte il trucco e i vestiti che sono, cioè, oltre alla cura nelle basi musicali, c'è stata una cura nel ricostruire la visione di quello che erano gli anni Ottanta, sia dal punto di vista dei vestiti, del trucco e della scenografia, che se guardi i dettagli è qualcosa di pazzesco, veramente, stai lì a analizzare i dettagli, ogni volta che, cioè, capisci che quando una cosa ha un successo sì, e piace sì, è perché tu non ti accorgi di quello che c'è dietro sì, ma lo percepisci, lo senti, quindi sì, è qualcosa vero, che è stato veramente studiato tantissimo, e quindi a te piace, non capisci perché ti piace, poi vai a analizzare e capisci il lavoro che c'è dietro. Allora, un secondo solo e poi andiamo all'ottava. Sura piano dell'eterno, non è giusto per te. È un posto sbagliato per stare sole, cazzo di vecchie cassette. Compra il biglietto, scappa in silenzio, non complicare. Boh, ragazzi, è roba difficile per una lingua, cioè una canzone pensata in una lingua, cantata in un'altra lingua, che musicalmente è totalmente diversa. Non diciamo migliore, peggiore, ma proprio dal punto di vista fonetico è totalmente una cosa diversa. E riuscì a dare comunque un'interpretazione alla canzone ugualmente, con tutto il sound dietro, che no, basta. Ma è veramente un gran lavoro, veramente un gran lavoro. Grazie, Canale 1 Russia. Che in Russia si dice Canale Oski, One Oski. Adin, Dovato. Ma che ne so. Senti, spiegami questa cosa. Anzi, Canale Adna, perché c'è la. Spiegami questa cosa del frassino, per cortesia. Ma guarda, io la lascerei raccontare a Carlo, perché è lui che. C'è anche trovato il video. Di frassi. No, perché lui l'ha amata molto più di me, cioè nel senso, chiesi al frassino, ci ha fatto morire tutti. Allora, però. Allora ragazzi, il video e la canzone originali sono bellissimi, sì. Cioè, levatevi proprio, che cioè, non è un video ma è un film, è un film, film. Okay, è sì, un pezzo, però, di un film, esatto. La colonna sonora di un film, e infatti si vede che è un pezzo cinematografico, perché esatto, la canzone è una canzone famosissima in russa, in Russia, che è una, in origine è una poesia. È una poesia scritta da un poeta russo nato all'inizio del Novecento, morto nel 1938, drammaturgo, poeta negli anni 20 e 30, che poi cadde in disgrazia e fucilato durante le purghe staliniane. Vladimir Kishon, il poeta. La canzone è una... Esatto, la canzone tratta da questa poesia, una canzone d'amore famosissima in Russia, resa famosa da un film in russo, che è quello di cui appunto ti ho mandato il pezzettino del video. Il film narra praticamente la storia di questa canzone, dove praticamente è la storia di un uomo che rincorre la sua amata in giro per il mondo, e che poi alla fine, quando si ritrovano, scopre che in realtà è diventata la moglie di quello che era il suo amico. Insomma, una classica storia d'amore abbastanza classica da questo punto di vista, ma che ha appunto avuto un successo incredibile. Possiamo mettere la canzone originale, tratta appunto dal film di Eldar Ryazanov, se lo pronuncio giusto, che è piaciuta molto appunto al nostro Pizzi, perché esatto, fa vedere la cinematografia russa di quell'epoca. No, ma è anche bella la canzone poi, comunque, cioè, sì, al di là di tutto. Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая? Scusami, я faccio soltanto un'intrusione. C'è una incredibile influenza francese in una canzone del genere. Sì, sì, sì. Beh, sì, sicuramente la musicalità. Anche il modo in cui ha cantato. Però senti il suono delle parole russe, come Maya Lubimaya, il mio amore. Моя любимая, долго дождик слезы за балконом. Cioè, fate caso, sta parlando da sola, come sì, sì, dicevo, comunque l'influenza nella melodia, nello stile del canto, ma soprattutto anche nel modo in cui è effettata la voce, è un omaggio, è una profonda influenza francese, del cinema anche francese, che hanno avuto molti vincoli, molti legami anche lì comunque con la cultura russa. ed è veramente bello sto brano. Devo dire, io non so, non ricordo la versione italiana, cioè mi dispiace la anche che... è la chiusura, è la chiusura cantata, sì. È la chiusura della cosa cantata da una cantante russa famosa, che è appunto quello che ho accennato all'inizio, che la Soldinetta, esatto, che viene tradotta in italiano come la Soldinetta, che viene ospitata anche con l'altro cantante Vittorio Isaia, perché è il suo è un altro famoso cantante russo, e c'era l'occasione di presentare il fatto che loro si sono sposati nella realtà veramente pochi mesi prima, e infatti li celebrano il fatto che si sono sposati prendendoli un po' in giro. Sì, gli regalano un cesto di frutta e una tintura nera a lui. La tintura per capelli nera per lui, perché lui è un cantante vecchio e si tinge i capelli, quindi lo prendono in giro per quello. Anche quella è una battuta che noi non capiamo, ma per i russi faceva molto ridere. E Carri cantano insieme anche al presentatore, a Giovanni Urganti, a Ivan Urgant, che fa vedere anche quanto è bravo in generale, sia dal punto di vista artistico a tutto tondo, quindi anche come, come cantante, a reinterpretare questo grande classico russo. Mamma, mia Nadia è arrivata. No, questo è il pezzo del questo film. Questo è il pezzo prima. Prendi per una. Vabbè, sentiamolo. Puttana? Sì. Sì, sì. Pure al piopo io, dove è l'amore mio? Il piopo non rispose a me, non sa dove è lei. Chiesi a autunno io, dove è l'amore mio? L'autunno pianse e piove su di me. Signore, buon anno! Allora, diciamo... Vabbè, questo purtroppo è il pezzo di YouTube, quindi... Prosegue però, sì, poi c'è anche il pezzo finale che viene dopo tutti i saluti delle persone che fanno la chiusura della canzone. Anche. Vabbè, allora tanto parliamo noi, ma quando ritorna noi la, la ributtiamo. Diciamo anche, ragazzi, che è carina, però la versione originale è l'unica dove la versione originale forse resta, è una canzone resta insomma avanti, insomma. Poi io farei sentire anche questo pezzo qua, perché è per far capire, questo è veramente tutto in italiano. Venezia infinita, l'unico mio, l'unico. Ma praticamente quindi lei... Allora qua senti, tu dici è più brutta, ma è più brutta perché? Perché è stata musicata come una canzone pop degli anni Ottanta. Sì. E il lavoro che c'è dietro anche qua, anche qui, inginocchiarsi, perché hai sentito i coretti, il suono delle trombe, dei fiati. Sì, no, no, ma infatti, coro, cioè... infatti io dicevo, cioè nel senso è chiaro, cioè quello che dici te sono d'accordo al mille per mille, però chiaramente prende una canzone con l'ispirazione della canzone d'autore, con ispirazione francese, e buttarla sul poppettino, alla fine comunque in qualche maniera perde, no? Cioè nel senso, ma poi, sì, sì, ma, quello... ma poi ascoltandola comunque è orecchiabile, però fatemi capire, cioè lui è un vecchio cantante e lei è una ragazzina, tipo, no? No, No, in realtà No, lei è una cantante famosa già, non vecchia. Sì. Lei è famosa anche adesso, lui era famoso prima, avrà, non so, 45-50 anni. Sì. Esatto. Ok, quindi non è un vecchio po'. E si sono sposati. Lui era il produttore di lei anche. Ok. Sì. C'è anche questo. Vedi come funziona la vita, insomma. Che vabbè, poi tra l'altro la cosa che non abbiamo, vabbè, le quattro puttane che tra l'altro poi vengono tre. Questo sì, secondo me è da citare, più che altro che c'è la canzone, lì è la canzone, non la capisci molto che è, perché anche è la sigla del telefilm russo, sì. È la canzone Kiki, è la sigla del telefilm russo, quindi non è proprio una canzone vera e propria, è una sigla TV che lì adesso è in classifica perché la trasmissione ha avuto successo. È un po' come la casa di carta che Bella Ciao che l'ha riportata in auge, e poi loro infatti questa, diciamo così, questa serie la chiamano in italiano La Bella Telenovela Quattro Puttane. È una serie TV che però si intitola Quattro Prostitute, sì. in russo, sì. Ed è una serie che sta avendo un successo incredibile, sì. in Russia. Io ne ho visto un pezzettino e devo dire che anche lì la produzione spacca, cioè è veramente fatta molto bene, e probabilmente soldi, se fosse tradotta avrebbe successo anche da noi, secondo me, probabilmente. Sì, probabilmente arriverà. L'invasione russa la stiamo vedendo intanto nel mondo dei videogiochi, così giusto per... Sì. È vero. Poi domani sera dirò una cosa su questo. È solo l'inizio. Bene ragazzi, allora volete fare un commento finale, Michela? Così almeno. Ma io ho fatto tanti commenti durante la trasmissione, anche impropri, nel senso che a volte ho interrotto un ma più sì, tipo. Tanto perdi il controllo. So. Diciamo che per me è veramente un grande regalo, perché io c'ho dei ricordi bellissimi e anche difficili della mia vita in Russia, perché comunque sono partita sempre da sola e ho voluto affrontare questi viaggi studio da sola, però poi li ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita, in realtà, anche se la realtà russa poi certe volte mi dava delle pizze in faccia che neanche se veramente mi prendevano a schiaffi 25 persone insieme, però diciamo che poi alla fine me la sono cavata e porto dei ricordi molto belli, soprattutto di posti vissuti e visti e di persone, insomma, che ho conosciuto, anche persone russe, amici, un'amica tra l'altro che non c'è più, che è lei che mi ha praticamente trascinato in questa diciamo così, in questo turbinio di amore per mamma Russia. E quindi mamma Maria, vi consiglio in qualche modo di approfondire, diciamo così, la conoscenza per la Russia, perché alla fine ne rimarrete colpiti. Carlo. Io invece non sono ovviamente come Michela, non sono partito da una posizione di vantaggio, insomma, della cultura russa o di quello che c'era dietro, ma quando lei ha girato questa puntata e ho iniziato a vederla, come hai detto giustamente tu, tra i primissimi che l'hanno vista, perché avevo iniziato a parlarne quando ancora sì, non poi avevo dopo facevano tutti i coatti, oh, ho scoperto la cosa, belli, esatto. E io ne sono rimasto affascinato e, come ho detto prima, quando c'è qualcosa che ti piace è perché dietro sicuramente sì. c'è un lavoro di cui tu non ti rendi conto, e ho iniziato subito così, come faccio sempre, a cercare di approfondire cosa c'era dietro, e mi ha trascinato in un vortice. Lì sono entrato veramente in un vortice, un po' l'abbiamo spiegato durante questa trasmissione, nel capire veramente sia il grandissimo lavoro che c'era dietro, sia quanto questo sia un omaggio a quello che noi, in maniera, se vuoi, anche incosciente, la televisione e la cultura italiana ha prodotto in quegli anni, e che è finito nella cultura russa, nel bene e nel male, perché noi sappiamo che abbiamo anche fatto danni con questa storia, insomma, ricordiamo. Assolutamente, però assolutamente. Quello che mi ha stupito, che è saltato fuori, è uno, l'amore sicuramente, che un po' si sapeva, ma soprattutto la professionalità, la cura, la bravura che c'era dietro, e poi è saltato fuori tanta cosa di cultura russa, come quei film degli anni 50, quello del 75, quello di Io chiesi al frassino, sì. che mi fanno riscoprire una cosa che dentro di Carlo? Abbiamo perso Carlo. Zona artistica ripeti perché ci siamo persi il pezzettino. Stavo dicendo che quello che mi ha fatto poi riscoprire è anche tutta quella cultura russa precedente alla parte, diciamo, del prima del crollo del muro di Berlino, prima dell'89, che già un pochino si sapeva che c'era, quindi la filmografia russa, eccetera, ma che è stata praticamente dimenticata e che può venire riscoperta adesso come quei film che tu hai giustamente citato, che abbiamo citato prima. Guarda, proprio in merito a questa cosa del bene e del male della televisione italiana, voglio raccontare una cosa che forse ho già raccontato da qualche parte. Una cosa che è successa in una notte cecoslovacca di fine degli anni Ottanta, io con un mio amico, mentre che camminavamo, insomma, c'era, appunto c'era ancora la Cecoslovacchia, quindi insomma capite bene. Che era un altro universo, era veramente un altro mondo, e a un certo punto si avvicina con questo ragazzo vestito con un'uniforme sportiva che si è avvicinato a noi e ci ha detto: voi siete italiani? Dice: sì, siamo italiani. Dice: ma posso stare con voi? Posso venire con voi? Io vorrei trovare un modo per andare in Italia. E abbiamo detto: vabbè, ma che c'è? Noi ovviamente vedevamo la cosa dal nostro punto di vista, no? Cioè, che ci vai a fare? Lui era un calciatore professionista di una squadra di calcio albanese che era scappato dal suo ritiro e stava andando in giro per Praga e cercava ovviamente un modo per andarsene in Italia. Questo è tutto legato al fatto che lui vedeva l'Italia come quello che l'Italia trasmetteva, chiaramente, no? E quindi c'è sempre stata un po' questa immagine, no? Del fatto che noi eravamo il paese dei balocchi, il paese delle meraviglie, quando poi probabilmente, forse con un certo ben verso, ci abbiamo anche creduto che era così, poi era un discorso diverso. Però è bello ricordare questa cosa perché mi rimarrà sempre impressa queste due o tre ore che poi abbiamo passato insieme a chiacchierare, a raccontarci, a spiegargli. Poi non lo so che fine ha fatto, se è tornato al ritiro, se ha provato ad andare in Italia, non lo saprò mai. Dipende da come, da cosa gli avete raccontato. Ma gli abbiamo raccontato come la vedevamo noi, ma era difficile smuoverlo. Per lui comunque qualsiasi cosa era meglio di dov'era, no? Questo. Beh, c'aveva anche ragione. Probabilmente c'aveva anche ragione, esatto. Va bene, ragazzi, è stata una bellissima puntata. Allora, io ringrazio e vorrei ringraziare pubblicamente Carlo, perché come gli ho già detto, partner in crime in questa puntata, io proprio si è esplosa quando ha detto: facciamo una puntata. Io sì, vai. Hai trovato qualcuno che se no non l'avresti, se no l'avrei fatta da sola, sarebbe fatto cambiare. Abbiamo fatto cambiare anche un po' idea a Simone, perché prima lui non aveva capito tutta la cura che c'era dietro a quelle canzoni. No, cioè, ma perché io non l'ho seguito, l'unica cosa che seguivo era sta roba dentro casa che girava 24 ore su 24, e alla fine questo è controproducente da una parte, no? Invece è bello comunque anche il fatto di fare una volta dei percorsi un po' indietro nel tempo, come ho scritto poi nel documento, è veramente un po' la macchina del tempo, un po' guardare noi stessi 20 anni, 30 anni fa, no? E questo è, insomma, bisogna ringraziarli questi per aver fatto sta cosa, sì. Mamma Russia, che ci ha dato, grazie, poi lo stimolo per fare questa puntata e magari anche uno stimolo per andare a fare ulteriori puntate riguardanti gli anni 80, gli anni 90, insomma, è quello che ci ricordiamo anche rispetto a quello che è la musica, insomma, e via dicendo. Io ringrazio Michela, che ovviamente grazie mille, grazie per questa occasione, è la tua trasmissione che... questa era la Runtime Radio, sei la padrona. No, no, ma è l'occasione, perché io sono profondamente grata che esista questo Ciao 2020, ve lo giuro. Cioè, se... veramente ci penso che io, a me mi ha svoltato. Adesso proviamo a intervistare, poi gli mandiamo delle mail e vediamo se riusciamo a intervistare qualcuno, chi lo sa. Detto questo, ragazzi, per quanto riguarda Runtime Radio, domani sera ore 21 Ludico Forum torna con una puntata Real Engine oltre il videogioco, ma parleremo anche di altri motori grafici, quindi applicazioni professionali. Non è venerdì? Hai ragione, venerdì alle scusa, hai ragione, venerdì domani alle ore 21, scusa, ho perso un po' la cognizione del tempo. Mentre sabato sera alle 23:30 torna Runtime by Night, il tema è i buoni propositi, è una cosa carina, insomma, quindi 23:30 fino a notte, insomma, fino a che riusciamo. E poi ricordatevi, domenica c'è Michela De Paola che ritorna con la sua trasmissione musicale Mono, e la puntata si intitola One Book, One Song, puntata dedicata ai libri, con la partecipazione edizione speciale, oltre che dell'Eliangolo, che ormai è diventata una garanzia, di Simona Ortolani, curatrice del fantastico programma Gli Scimmioni Non Leggono Nietzsche, sempre programma di Runtime, bellissimo. E ci sarà un, diciamo così, una partecipazione, una sua partecipazione molto molto molto bella, in cui ci racconterà quello che vede lei tra il nesso tra musica e libri. Ok, sì, poi non spoileriamo oltre. Ognuno ha scelto sia Liliangolo che Simona tre canzoni, e poi resta solo le canzoni di Michela. Io vi saluto con questa canzone che è la più becera, ma è la più andate bella di tutte. Andate a vedere Mamma Maria. Prima di tutto guardate veramente lo sketch di Mamma Maria, forse sì. Esatto, giusto. Una cosa che proprio in chiusura, questi qua, i Little Big, sono, come hai detto, hanno spopolato nel 2019 all'Eurovision. Io mi sono andato a vedere un po' di loro video. Andatevi a vedere Hypno Dancer, perché è un video veramente che è da vedere, insomma. Hypno Dancer dei Little Big, okay. Guardatevelo, non dico altro. Bene ragazzi, ringraziamo tutti quelli che questa settimana hanno fatto tantissime donazioni a Runtime Radio. Vi ricordo che su Telegram, scrivendo Runtime Radio, trovate il nostro canale. Non si può interagire, ma ogni volta che esce una nuova puntata, un live o roba del genere, comunque viene pubblicato lì, sarete sempre aggiornati. Altrimenti cercateci su Spreaker oppure www.runtimeradio.it. Detto questo, ragazzi, ringrazio Carlo, ringrazio Michela, buonanotte a tutti. Cos'è c'è?